Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Le persone che mi hanno attaccato in maniera più spietata e più acerrima l'hanno fatto perché sono convinti di individuare in me un nemico degli animali. Nulla di più falso. Sono nato in mezzo agli animali, sono nato in campagna. La mia camera da letto era vista sulla stalla del contadino che stava accanto a casa nostra. Quindi figuriamoci se posso non amare gli animali. Ricordo con grande apprensione e grande nostalgia le giornate in cui c'era la festa della gloria del maiale, il giorno che si ammazzava il maiale. Era una grandissima festa. Come faccio a non amare gli animali? Volete mettere quelle belle secchiate di sangue caldo che andavano in cucina per fare i sanguinacci, e le prime spuntature che venivano cucinate subito sul fuoco, e vedere confezionare con cura, con maestria, con tempo, salami, prosciutti, salsicce, quel lardo profumato che si appendeva con attaccato il pungitopo perché non ci andassero gli animali cattivi, i topi, che realmente sono cattivi, e ce lo mangiassero. Molte volte in realtà ho preso posizioni che potevano sembrare in qualche maniera oltranziste nei confronti della follia filogattara che fa sì che esistano delle generazioni di persone che pensano che possano esserci uomini e donne così crudeli di avere come scopo della vita la tortura e l'uccisione dei poveri gattini che circolano per le città, e quindi ti guardano in maniera sospettosa, e quindi continuano a riempire le strade di pentolini con avanzi di spaghetti, con quello che la loro mensa scarta, e questi avanzi attirano i topi, e ancora una volta abbiamo dei problemi di sovraffollamento di animali nocivi. Detto questo come premessa, perché dovevo riempire 2 minuti perché le durate delle trasmissioni estive sono naturalmente inferiori, che c'è meno pubblicità, era per riproporvi una fantastica puntata di Melog dedicata all'apoteosi dell'animalismo, è il pensare che possano esistere dei metodi per convincere cani e gatti ad essere vegetariani e quindi anche loro a non fare scempio di altri esseri senzienti. L'ho trovata molto divertente e spero che altrettanto la troviate voi, anche se l'avete già ascoltata. Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un argomento particolare, ovvero le crocchette vegane per gli animali domestici, cani e gatti. Da alcune critiche che vengono fatte ai vegani, ovvero che costringono i propri animali domestici a, appunto, a una dieta vegana. Allora, innanzitutto molte persone dicono lo stato di natura, no? Dicono gli animali in natura mangerebbero altri animali. Se non ve ne siete accorti, non siamo più in uno stato di natura, purtroppo. E questo significa che, volendo o no, ai nostri animali diamo quello che crediamo sia giusto per loro. A parte che qualcuno dovrebbe spiegarmi cos'è lo stato di natura. Detto questo, oggi mi sono posto anch'io questa incresciosa quanto difficile come risposta a domanda. Come fa un vegetariano stretto, una persona vegan, ma ancora di più, una persona che assolutamente non tollera l'eccidio animale al fine dell'alimentazione, ad avere poi animali domestici, visto che ci sono persone iper vegetariane, piene di cani e di gatti, mediamente ogni gattara dice mai io mangerei carne, immediatamente ogni signore porta il cannolino a spasso per i giardinetti, normalmente dice oh che orrore se tu la metti davanti a una bistecca o una sfilata di salsicce da cuocere alla brace. Quindi mi sono posto maliziosamente il problema, ma come fanno poi al cagnolino? Devono darglielo comunque, che ne so, le crocchette, sì, le crocchette sono ben confezionate, non le vedi, ma ci hanno macinato dentro qualche animale, i bocconcini, sì, quei bei quadratini felici, vedi il gatto che si lecca i baffi in televisione, ma quei bocconcini sono presi dalla coratella di qualche altro animale, i bastoncini con le cremine, c'è un patè, perché c'è un gatto lussuosissimo con un collare che si mangia il patè, che sembra un patè de foie gras, ma lì le povere oche non l'avranno massacrate per fare il patè de foie gras, ma hanno massacrate per fare il patè per il gatto. E quindi come si fa? E invece la soluzione c'è, è inutile porselo in maniera maliziosa, cioè le persone che veramente hanno un'osservanza stretta del principio di non uccidere animali